that you left. Through the air, all I see is your face full of blame. Ore 19.01, sta per iniziare sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 una nuova puntata di Likewise. È un'oretta di musica insieme a Donna Sonica e Pinklo. You can go extra 20, they will not sex you like me. This 10 million, this 10 million, they will eat you and then I mean. We are driving, betting in our yards and this like it. This sex in toes of me, basically undivided. I don't wanna play, I don't wanna play, man. Go back for you, I damn to X1. I don't wanna play, I don't wanna play. La nostra sigla che ci fa compagnia quest'anno, Moonchild, Suddenly Undumpable, non ci potete lasciare manco a noi. E partiamo subito, sparate, poi diciamo tutte le altre cose, visto che l'altra volta non abbiamo messo questo pezzo a cui tenevi tanto, Pinklo. E quindi insomma facciamolo subito, così non perdiamo tempo con l'attenzione. Vai. Bella fresca. La si chiama Senseless Optimism, Lost My Mind. Lost my mind in yours, trying to figure it out. You're so self-assured, while I'm still stuck in my house. You make me feel, lost my mind and yours, trying to Senseless Optimism, Lost My Mind in Yours, tratto dall'album It Gets Better, uscito a luglio scorso. E Britney era un po' nella nostra nelle nostre playlist da un po', diciamo, cercavamo di infilarla, di trovare insomma il giusto. Io devo dire che ce l'ho già infilata lei, perché in realtà l'abbiamo già ascoltata, però era uscito un nuovo singolo che è quello che abbiamo sotto in sottofondo, ma lei a me piace moltissimo, lo confesso, perché trovo che abbia uno spirito molto pop, però senza scadere nella banalità. Ha sempre un ritmo molto veloce, accattivante nelle sue canzoni. Ci sono tante influenze: rock, soul, rhythm and blues. Lei è polistrumentista. È molto divertente, seguitela, magari cercatela su uno dei social meno fastidiosi che esistano in giro, perché dove appunto noi spesso seguiamo le artiste che ci interessano, perché ci sono degli aggiornamenti che sono efficaci, almeno per quello che è seguire un artista e quello che fa, perché lei posta questi video molto divertenti in cui praticamente suona tutto, e quindi lei che suona tutto e monta questi video molto molto divertenti in cui c'è sempre lei che balla pure ogni tanto. Sì, esatto, che poi sono i video delle canzoni, dei singoli che stanno uscendo. Lei la produzione non è gigantesca, ma noi ci auguriamo che faccia un disco presto, almeno io personalmente sì. Benvenute, bentrovate a tutte e a tutti, questa è Radio Onda Rossa, siamo sugli 87.9 FM in DAB come Onda Rossa a Terni, ciao a tutti, ciao e sul streaming in the world, praticamente dove volete, da www.ondarossa.info. abbiamo bisogno di tanta energia questa settimana, dobbiamo canalare la nostra rabbia anche dentro un po' di gioia, quindi un po' di hardcore. Loro sono Skull, Opening Night. Noi ci siamo. Un po' quel distruggi tutto che gira come in questi giorni. Mi sembrava adeguato. Opening Night, Skull, tratto dall'EP uscito da poco, si chiama Psychic Dance Routine, e si sente poco hardcore da queste parti. Devo dire, abbiamo scelto Pinco, non ti volevo turbare troppo. Abbiamo scelto il pezzo più, diciamo, in qualche modo meno tosto, molto bello di questo EP, che vi consiglio, insomma, se vi piace il genere o se volete esplorare anche il genere, perché magari non ci avete mai provato, invece delle cose vi possono piacere. Loro vengono da Santa Cruz, California. C'è molta America stasera nella nostra playlist. Non so se ti sei anche molte polistrumentiste, tanto per cambiare. E tra l'altro, insomma, secondo me è un genere che esploriamo poco, ma dovremmo esplorare, anche perché da un lato ci sono un sacco di musiciste, soprattutto in posti che ascoltiamo non spessissimo, diciamo l'America Latina e il Giappone, comunque insomma la Corea, moltissimi, cioè due poli opposti del mondo rispetto a noi, che, dove ci sono molte female band che fanno questo tipo di musica. E sì, insomma, in questo caso in realtà Kate Moss è la cantante della band, che è più facile, insomma, la frontwoman che ci sia in una band hardcore, non diffusissimo, ma più facile. Quindi benissimo, dobbiamo esplorare questo ambito, sì, cara. Ci puoi raccontare qualcosa? La cosa che possiamo dire è che in qualche modo lei stessa ci lancia un po' una sfida, dicendo che per quanto l'hardcore sia per tutti, non tutti sono per l'hardcore. Quindi se vi sentite pronte ad accettare la sfida, potete lanciarvi nell'ascolto della loro produzione. Il gruppo ha pubblicato un primo EP nel 2019 e anche un secondo sempre nello stesso anno, e poi un album di debutto nel 2021 che è How Flowers Grow, sempre pubblicati con l'etichetta Flat Spot Records. Questo è il loro invece terzo EP, quindi diciamo sono comunque anche una band abbastanza giovane, quindi sono alla quarta pubblicazione, 3 EP, un disco di debutto, un long play come si direbbe correttamente. Quindi se vi sentite pronte o se avete voglia di urlare, che in questi giorni effettivamente potrebbe esserci molto utile anche un po' per sfogare tanto di tutte le cose, anche per esercitarci in vista del corteo di sabato, e quindi ve le proponiamo. Passiamo al terzo pezzo di questa playlist della 68esima puntata. Ho detto giusto stavolta, sì, che l'altra volta, yes, andavo avanti. Cambiamo genere, lei si chiama Earth Eater, Face in the Moon. Oh, E questa era Earth Eater, Facing the Moon, tratto dall'album Powders, uscito lo scorso 20 settembre in America per la House Mountain e in Europa per la Pan, che è un'etichetta berlinese. Entrambe sono due etichette molto molto interessanti, da cui insomma abbiamo anche noi preso delle cose, quindi se non le conoscete andate a cercarle. Earth Eater, o anche potremmo dire miliardi di pseudonimi, Alexandra Drewchin, oppure Trinity Vygotsky, o mille altri nomi con cui si conosce per alcune cose. C'è anche un altro nickname che ha usato quando ha collaborato con un altro artista. Insomma, un personaggio molto interessante. Anche lei americana, credo della Pennsylvania. Però vive nel Queens, esatto. Appare sulla scena un po' di anni fa ormai, quasi una decina di anni fa, diverse produzioni, diverse collaborazioni, e anche lei è una multistrumentista come molte delle artiste che passano queste parti, e anche produttrice, compositrice, esatto, e soprattutto suona chitarra, il piano, esatto. Quello che te pare, metti le mani e lei te lo suona, e in sostanza molto varia anche la musica all'interno dei suoi lavori, insomma spazia dall'elettronica al songwriting, con questa voce veramente super super super dotata. Fatemi un regalo: su uno dei social video c'è un suo concerto solo voce e chitarra per il format che si chiama Boiler Room, ed è veramente veramente un concertino fantastico. Sì, molto bello. Comunque sono quasi 15 anni in realtà che calca le scene, perché si è esibita, ha iniziato ad esibirsi nel 2009, ha esordito con un album nel 2013, Metal Sis. Queste sonorità che ascoltiamo in questo disco sono molto più appunto elettroniche, anche se lei ha fatto anche i primi lavori, sono molto folk d'avanguardia, insomma anche di ricerca. Qui ci sono più sonorità elettroniche vicine al trip hop. Questo è il suo sesto disco, sono 9 tracce, e in realtà è già stato annunciato per il 2024 un disco gemello che si chiama Aftermath. Quindi, che uscirà a marzo. Quindi lei qua sta sempre avanti, e vi propone artiste, insomma, che dovete. Quindi, se vi piace questo disco, poi aspettate la primavera, così esce pure, il suo gemello. Quindi immagino che ci sia, si parleranno questi due dischi, ci sarà qualche correlazione, perché per farli uscire insieme, o lei aveva talmente tanto materiale che non entrava in un solo, comunque, e non ha deciso di fare un doppio, oppure queste cose sono insomma dei mondi che si parlano anche per dissonanza, visto che comunque tra i suoi temi ci sono tante la trasformazione, la metamorfosi, il cambiamento, sono molto centrali nelle sue produzioni. All'interno di questo disco, così tra le altre curiosità, possiamo dire che c'è una cover dei System of a Down, che stravolge completamente insomma la natura sonora di quel pezzo, perché viene suonato semplicemente con la chitarra e voce, quindi gli viene abbassato quel livello di forza, di aggressività della canzone. Se vi incuriosisce, andatevela a cercare. Siamo al quarto pezzo, loro sono Mannequin Pussy, I Got Heaven. Our mother said, and them and those before. And you say you want a difference, your honor to be yours. Like our father said, our mother said, and them and those before. The echo and a retail of some shit we've heard before. And what if we stop spinning? And what if we're just flat? And what if Jesus himself ate my fucking snatch? And what if I'm an angel? We'll be right back. I Got Heaven, Mannequin Pussy, una manciata di singoli da agosto a questa parte che andranno a formare l'album che avrà lo stesso titolo del singolo che abbiamo ascoltato il prossimo marzo 2024. Anche questa è una band americana che viene invece da Philadelphia. Anche loro in giro dal 2010 più o meno, tre album veri all'attivo, più un EP veri, insomma, come anche dice la nostra Pinclo. Poi insomma un EP, l'ultimo EP risale al 2021 e quindi insomma da tre anni mancano, l'anno prossimo si lanceranno con il prossimo EP, con il prossimo disco, tra l'altro che sarà il quarto disco che sarà, uscirà anche questo per la Epitaph. Insomma, stavamo dicendo, non un'etichetta così tanto per dire, no è un'etichetta abbastanza famosa nella storia della musica, anche diciamo underground indie degli anni sopra il 90, abbastanza conosciuta. E il disco precedente è uscito tre anni fa, sì, nel 2019. Loro hanno anche nel mentre fondato una loro etichetta discografica che prende il nome dal loro disco, che si chiama Romantic Records, non il disco, l'etichetta discografica, il disco si chiama Romantic, e dichiarano di c'è una volontà costante nel perseguire il male, che fare qualcosa di bello suona come un atto radicale. L'ethos della nostra band è stato quello di far unire la gente. Quindi allora, io le vedrei, mi piacerebbe vedere dal vivo. Loro sono, ricordiamolo, Marisa Missy Dabis alla batteria, Kalin Reading, tra l'altro hanno avuto vari personaggi alla batteria finché Kalin è arrivata e si è piazzata alla grande, perché la batteria è un pezzo tosto della band. Al basso c'è Collins, l'orsetto della band, e alla chitarra Maxine Steen, quindi insomma è proprio una band che mi piacerebbe tanto andare a vedere al vivo, ma che probabilmente non vedremo mai da queste parti. Forse no, però non lo sappiamo, siccome il disco esce a marzo, probabilmente magari in estate, chissà, qualche festival piccolo, medio, nord Italia, non lo sappiamo, dai, magari sì, perché no. Questa è Likewise, questa è la vostra radio Onda Rossa. Che ore sono, Pinclo? Le 19:24, noi siamo ancora in orario. Dai, però, cioè, è il momento in cui sbagliamo tutto. Appena lo diciamo, poi non lo siamo più. Infatti, dai, è sempre così. Pezzo numero 5 della scaletta di questa sera, Matari, cantata da Marta Del Grandi. Thank you. presentazione tipo Tipo Pippo Baudo. Canta Marta Del Grandi. Marta Del Grandi, questa era Mata Hari, tratto dall'album Selva, uscito per la Fire Records, tra l'altro, insomma, un'etichetta interessante con cui ha firmato nel 2021, etichetta britannica che ha base a Londra e che ci piace. Marta Del Grandi, io non la conoscevo, grazie Pinco per avermela fatta conoscere, e devo dire che questo album non mi ha fatto impazzire. E so gusto. Diciamolo. Diciamo anche le cose. Cioè, no, certo, noi lo diciamo sempre. Lei è una cantante, autrice e compositrice, evidentemente italiana. Vive in questo momento, credo, sul lago di Como. Ha vissuto diversi anni in Belgio, dove ha studiato anche canto jazz, dopo averlo studiato a Milano. Ed è una delle cose che, dice lei, l'ha avvicinata in qualche modo poi più profondamente alla musica. Ha scritto un disco, ha autoprodotto un disco come Marta Rosa prima del suo album di esordio, con l'etichetta che invece è stato, quindi nel 2020, immagino 2016. Ah, vedi, ancora prima. E l'album che è uscito come di debutto nel 2021 si chiama Until We Fossilize, che è stato registrato, insomma, durante la pandemia, l'ha quasi registrato interamente lei. Invece per questo disco è tornato a suonare con una band. Si vede che il disco infatti ha un suono più corposo, più pieno. Ci sono diversi strumenti: il synth, il piano, le chitarre, i bassi, le percussioni, i fiati. A me in realtà non è dispiaciuto, io l'ho riascoltato anche oggi di nuovo, lo trovo comunque un lavoro ben fatto. Vabbè, non mi guarda così. Non mi sto entusiasmando, no. Le daremo un'altra chance, dategliela anche voi, e poi lanceremo un sondaggio. Ascoltatevelo. Marta Del Grandi sì, Marta Del Grandi no. Peraltro, se invece volete testare, che secondo me è poi la cosa migliore, certo, per capire, insomma, infatti anche un Andrei, po'. Io andrò a sentirla. Ma cosa entrai? Andrò a sentirla, arrivo a mezzogiorno è qualcosa. E 5 ti lanci, esatto, direttamente sì, al Monk, perché fa un matinè. Quindi una cosa anche abbastanza inusuale, un po' particolare, cioè domenica 26 suona a 12:15 al Monk, alla Sala Teatro, questa domenica 26. Quindi se siete curiose di vedere se c'ho ragione io, c'ha ragione Dona, andate. Oppure magari io andrò a sentirla e poi ti ricrederai. Mi ricrederò e no, ti dirò, ma sai, cioè, dal vivo spacca. Esatto, quindi non lo possiamo sapere. Comunque, lo sapete che noi qui a Likewise mettiamo musica che non sempre entusiasta, ma entrambe, anche se entrambe. Vabbè, 19:31, state ascoltando Likewise, questa è Radio Onda Rossa, siamo sugli 87.9 in modulazione di frequenza e siamo al pezzo numero 6 della scaletta di questa sera, che è Plain Spec. Speak, infatti, è stato speak. È una cosa che, tra l'altro, siamo pure vegetariani vegani. Che dobbiamo fare questo speak? Speak. Marnie Stern. We'll be right back. eccola qui, Manny Stern, Plain Speak, o Speck come qualcuno vorrebbe dire, tratto dall'album The Comeback Kid, uscito ad agosto. Comunque il mix di mano ce l'ho io, devo fare mille cose. Hai ragione. Uscito ad agosto di quest'anno per la Joyful Noise Recordings, con cui escono, tanto per dire, No Joy, di Woof, insomma band che ci piacciono queste parti. Dire che Manny Stern, tra l'altro, lei usciva con la Kill Rock Stars nel suo album di debutto nel 2007. Manny Stern è una musicista, è una chitarrista. No, è una chitarrista. Una di quelle che finiscono nelle classifiche di tutti i giornali, un po' di Stone, tutti i giornali, Spin, sì, insomma, le 100, i 100, i 250. Le 32, ho letto pure così. Sì, esatto. Quindi, insomma, 250 chitarristi di tutti i tempi. Esatto, quando vabbè, fanno comunque, queste, diciamo, quando fanno queste liste, Manny Stern sicuramente ci finisce dentro. Quindi pensate voi quanto è brava, considerando che sempre, esatto, se prendiamo questi caspita di elenchi, poi guardiamo quante donne ci sono. In genere basta una mano per contarle. Esatto. Spesso non usandola nemmeno tutta, soprattutto dipende, magari chitarra un po' di più, no, dai, insomma, altri di strumenti più, molto meno. E diciamo che lei nasce come chitarrista, fa tantissime cose come chitarrista, ma è anche un'autrice, una cantante, e quindi, insomma, negli anni ha collezionato, ha accumulato un bel po' di produzioni, insomma, non tantissime, vabbè, ha fatto 4 dischi solisti. Falli dire. No, io non li faccio perché sono stonato e lo sapete, quindi no, e non ho neanche il senso del ritmo, cioè non suono mai, infatti ho provato a studiare musica ma era una chiavica. Vabbè, comunque no, ha pubblicato 4 dischi, no, dico, non sono tanti nel fatto che lei è comunque attiva dal 2007. È chiaro che una chitarrista ha fatto miliardi di collaborazioni, suonato in moltissimi dischi, penso che se andiamo a leggere i credits di diversi album sicuramente la troviamo, però solista è questo che è uscito a novembre, il suo 5° album, sì, dove, esatto, si è dedicata a lei, insomma, a tutte le composizioni, ed esce infatti a 10 anni dall'ultimo suo lavoro in studio, ma sicuramente non è una di quelle artiste che in questi 10 anni non ha fatto nulla, quindi quello certo. E appunto, insomma, anche abbastanza interessante, perché comunque con quello che fa normalmente, anche con la band con cui suona, anche per uno show televisivo da diversi anni, è comunque, lei ha una bravissima chitarrista, come dicevamo, ha una tecnica di tapping molto figa, e quindi, insomma, fa delle cose. Poi quando in realtà scrive, gli viene fuori questa sorta di noise rock abbastanza sperimentale, pieno di cambi e controtempi, insomma, che uno non se l'aspetta quando la vede nelle sue esibizioni più, diciamo, pubbliche, canoniche. Più canoniche. Allora, 7° pezzo, vai, lo vuoi annunciare tu? No, vai con serenità. Lei si chiama, che io alzo i volumi. Lei si chiama Rita Braga, Flores in the Gestas. Rita Braga, Flores Indigestas, sembra uscita da un in realtà da un'altra epoca, non troppo lontana, però insomma almeno all'inizio del secolo scorso, come dice spesso anche lei, però infilati dentro tanti strumenti elettronici che arricchiscono questa sua esperienza musicale. Saltiamo anche strumenti strani. Esatto, saltiamo dall'America, che è stata un po' la protagonista, diciamo, di questa settimana, e andiamo in Portogallo con Rita Braga, che tra l'altro dice in un'intervista che spesso in sogno le arrivano i cartoni animati a Bugs Bunny gli dice come proseguire la sua carriera, come fare le cose, che quali scelte fare nella carriera, nella sua carriera artistica, che pezzo scegliere, come proseguire delle composizioni. Interessante. Sì, assolutamente. Lei è nata a Lisbona, ha fatto tournée in giro per il mondo, per davvero, Europa, Stati Uniti, Brasile, Australia, Giappone. Non sono tantissime le artiste che riescono, ricordiamo, a girare in tanti paesi extraeuropei o comunque fuori appunto dall'America. E canta e può cantare in 10 lingue diverse. Complimenti. Brava. Esordio discografico nel 2011. Il disco che vi presentiamo questa sera è il suo quarto album. È stato coprodotto con Rodrigo Cardoso. È stato registrato a Porto, a Sono Scopia, e vede la partecipazione di molti musicisti locali e internazionali. Tra le tematiche che affronta principalmente il disco ci sono quelle, insomma, del riscaldamento globale o anche, insomma, quindi del cambiamento climatico. Infatti si chiama Illegal Planet comunque l'album, quindi 11 tracce. Brava che l'hai detto, Illegal Planet, che l'avevamo saltato. Se vi piacciono queste atmosfere un po' science fiction, un po' appunto cartunesche, un po' cabarettiane anche a volte, nelle sue, in alcune delle sonorità che ci sono in questo disco, Rita Braga è la vostra scelta. Sì, questi viaggi nel tempo che però non si capisce mai bene in che tempo si è sicuramente molto cinematografico. In qualche modo l'ambiente che crea nella canzone diventa proprio come uno scenario, come una scenografia, e credo che faccia delle cose molto interessanti. Mi ha divertito scoprire che ha scritto un'operetta pop fantascientifica a base di ukulele. Si chiama A Quantic Dream, cioè un sogno quantico, e appunto lo spettacolo combinava sequenza di sogni, l'astrofisica, il burlesque, l'animazione e un certo esistenzialismo spensierato. Cercate quindi anche i video, che sono molto divertenti. Prossimo pezzo, allora, sono Gossip Crazy Again. Crazy over you. Questa era Gossip, Crazy Again. Quei annunciano, gossip. Quei gossip lì annunciano diciamo l'album che si aspettava. Lo aspettavi te, Pinco? No, io non l'aspettavo, non sapevo neanche che erano ancora assegnata. Dopo circa 10-11 anni dall'ultima release, il prossimo marzo. Credo uscirà. 12 precisi, perché l'ultimo del 2012 a Joyful Noise, quindi. Grande, il prossimo marzo uscirà Real Power, che sarà appunto il loro nuovo album dopo la reunion. Ma non si, ma perché si erano, e questo non mi ricordavo. Non t'hanno chiamato quando si sono sciolti, ma si erano sciolti. No, io non mi ricordavo questa cosa. Se semplicemente fossero in pausa, i gruppi non si sciolgono più, mai. Vanno in un mogliato, diciamo, in una pausa indefinita. E vabbè, poi quindi volte... all'interno di questa pausa indefinita, comunque, Gossip sono in giro da almeno 20 anni. Il loro primo album è stato pubblicato dal 2003. Album da cui sentiamo, mi pare, la canzone di sottofondo era il primo, forse il secondo, non mi ricordo più. Forse il secondo mi sa. E hanno prodotto dischi per tutti gli anni 2000, ci hanno fatto una discreta compagnia, canzoni che abbiamo messo e ascoltato molte volte. E in realtà io sono contenta, perché a me la voce di Beditto mi è sempre piaciuta, e anche insomma i pezzi, il groove dei pezzi mi è sempre piaciuto. Mi è sembrato che questo pezzo nuovo stia andando in un'altra direzione, un po' meno ritmica, forse un po' troppo pop per i miei gusti. Escono per la Columbia Records, che è una etichetta gigantesca, è una casa discografica più che un'etichetta, infatti. E quindi vabbè, aspetteremo, dai. Vediamo. Tu non mi sembri molto convinto. Vabbè, no, questo pezzo non è granché. Non no, è, il pezzo non è molto bello. Se poi se lo metti brutto, a paragone di questo bello, sotto, certo, insomma, dei vecchi, è molto molto lontano. Ma noi non giudichiamo mai un album senza averlo ascoltato. Quindi lo ascolterei dalla copertina. Dalla copertina sì, alle volte. In realtà, ma senza averlo ascoltato, no. Vi ricordo che potete scriverci per lamentarvi di noi, per farci complimenti. Potete mandarci suggerimenti a likewise@ondarossa.info, che trovate tutti i nostri podcast sul sito della radio ondarossa.info. E che volevamo dire? Che sono le 19:49, siamo fantasticamente puntuali, e puntuali resteremo, che dopo di noi ci sono Note e Cose Città, che questa sera Semiglia invece non andrà in onda, poi dopo invece in tarda serata ci sarà Morfire. Pezzo numero 9 della scaletta di stasera, Girl Wood, Love is Fire. Sweet. Girlwood, Love is Fire, Kentucky Fried Queerdo Band, come si autodefiniscono. Sono due, ma valgono per quattro, devo dire la verità. Per 12 quasi. Reg Forrester alla chitarra e alla voce, e Mia Morris. Che poi con quel cognome mi ricorda Beautiful, però vabbè. Alla batteria, loro chiamano, definiscono la loro, a parte la band che le definiscono Kentucky Fried Queerdo, ma definiscono il loro, la loro musica scream pop. E ci siamo comunque. Io non vedo l'ora di vederle dal vivo. Ah, ecco, pensavo devo di, dire, di tutte urlare. Le, tutte le cose che abbiamo messo stasera, io voglio andare a vedere loro due. Perché tra, visto che parlavamo di urlare, di gridare, di essere esplosive, di far sentire la nostra voce in preparazione del 25 novembre, loro sono due che non gliela mandano a dire al patriarcato e a tutta l'eteronormatività della società mondiale, ma insomma americana nel loro caso, nella loro musica. Quindi, insomma, noi ci piacciono. A noi ci piacciono, verissimo. E incredibilmente questa settimana non c'era un pezzo shoegaze, diciamolo, perché si è messo agli atti di Likewise. E siamo in orario e Note e Cose Città ancora non c'è. E per le nostre, diciamo, ascoltatrici precisine, perché ne abbiamo diverse, sì, giustamente, non è un'offesa, ma è una cosa che ci piace molto, anzi, fatelo, sì, fatelo, fatelo. Passiamo alla canzone dello scream pop, che sennò non riusciamo a parlare. Fatelo, fatelo, fatelo, Standing in the Way of Control, che conteneva il Listen Up, che abbiamo sentito come B-side di Gossip, era il 2006 ed era il terzo album in studio della band. Tanto per dire le cose giuste. Giuste. Eh no, per forza. Chiudiamo con un'altra band che è incredibile, questa settimana abbiamo peccato persone che suonano a Roma, cioè artiste che suonano a Roma, il che sembra una cosa incredibile. Loro suonano a Roma e a Bologna questa settimana. E anche credo un'altra data, forse Torino se non ricordo male. Comunque insomma, comunque, sono in giro tour in Italia, quindi questa settimana andate a cercare questa band se vi piace, se vi interessano. Secondo me vale la pena di vedere le live, perché appunto avete forse sono la possibilità di vederle live, che insomma è tanto roba. Intanto ce le sentiamo, loro si chiamano Cam Girl 8 Cicciolina. Come Girl 8, cicciolina, tratto da Fantasy Farm, uscito il 18 agosto scorso per la 4AD, niente di meno, con niente, cui hanno di firmato, meno che. Niente di meno che con cui hanno firmato lo scorso aprile. Quindi insomma, Lida Fox, Veronica Willim, Chase Lombardo e Avishag Rodriguez, chitarra, batteria, chitarra, basso e voci ovviamente che si alternano, sono questo quartetto che tanto mi piace. Dai, almeno, indovinate, so, di che è? Città sono. Secondo me si capisce proprio, c'è un suono che è di quella città. Io lo so, quindi non vale. Quindi non vale, ma non ci chiama nessuno, quindi non passeranno a indovinare. Comunque sono di New York. Sono di New York, hanno almeno questo... vivono a New York, perché poi non... Sì, in realtà ci sono origini italiane, origini credo anche dell'Europa dell'Est, non mi ricordo di quale paese, scusatemi, ma insomma ci sono varie influenze. In realtà c'è anche una Rodriguez, quindi insomma probabilmente come spesso accade a New York, probabilmente arrivano da tante tante parti. Infatti una di loro racconta che la nonna calabrese molto all'antica, Chase Lombardo, immagino che è la batterista della band, ha imparato a dire Come Girl 8, e quindi dice che la nipote suona in una band, anche se probabilmente non sa. Ecco, si riferisce. Allora, insomma, cicciolina. E non ve lo sveleremo, ma non vogliamo svelare queste cose alla nonna, quindi non lo diremo nemmeno noi. Che se ci ascolta, dici. Esatto. Cicciolina, che è questo singolo, insomma, comunque che ha girato moltissimo, è anche il loro modo per omaggiare questa che loro considerano un'icona, appunto, che in qualche modo, come raccontano in una intervista uscita non tanto tempo fa, essere un'icona per loro è usare il proprio carisma, come nel caso di Cicciolina, la propria, anche la propria fama, per fare in modo che le cose cambino e sperimentare e non fregarsene di quello che pensa la gente, di come giudica la gente, ma andare avanti per la tua strada. E quindi insomma da qui il loro omaggio, ovviamente tutto quello fanno tante cose, hanno credo anche una sorta di fanno anche dei vestiti eccetera, insomma fa tutto parte del loro essere molto delle personaggi, oltre che delle musiciste, molto interessanti e molto particolari, e il corpo e l'immagine molto libera, molto desiderosa di sperimentare, fa parte delle loro esibizioni live. Ci siamo. Digli dove, diciamo dove suonano. Dove suonano? Suonano a Roma. Allora, guarda, questa data è incredibile, perché a volte la trovo, a volte non la trovo, non si sanno bene queste date, insomma, in realtà. Comunque suoneranno venerdì prossimo a Bologna al Freak Out. Prossimo sarebbe questo. Freak Out. Venerdì quello, sì, di questa venerdì settimana. Di questa settimana, fra qualche giorno, e domenica sera al 30 Formiche qui a Roma, e dovrebbe esserci anche un'altra data a Torino. A Macerata? Ma può darsi, magari all'ultimo momento si sono aggiunte le date. Sabato 25 novembre al Circolo Dong, Macerata. Non lo so. Vabbè, cercatele, perché comunque a un certo punto girate e le trovate dietro, quindi insomma vale la pena. Sotto casa vostra, quindi insomma sono in giro e sono abbastanza imprevedibili, quindi è possibile che vengano a bussare sotto casa vostra. Va bene, sono le 20:03, quindi come ci dice la nostra sigla sotto di noi, stiamo per chiudere la puntata numero 68 di Likewise, senza bisogno credo di ricordare alle nostre ascoltatrici che questo sabato saremo tutte in piazza al corteo contro la violenza maschile sulle donne di genere, e penso che non c'è bisogno di fare alcun commento. Anche io non riesco, mi vengono in mente solo brutte parole. Sono veramente molto molto arrabbiata. E ci sarà uno speciale redazionale però sabato mattina qui in radio, a Radio Onda Rossa, sia nella rassegna stampa, e poi un redazionale in accompagnamento prima del corteo, e poi probabilmente ci saranno anche la possibilità di sentire la piazza, comunque degli interventi dalla piazza nel pomeriggio. Quindi restate sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Per tutto quello che non riuscite ad ascoltare in diretta, vi ricordiamo che nel sito la radio pubblica tutto quello che viene insomma mandato in diretta, quindi gli interventi dalle varie lotte, dalle varie situazioni, le trasmissioni tematiche. Quindi andatevi a spulciare il sito e cercate magari cose che vi siete persi in questi giorni. Noi ci vediamo in piazza sabato a Roma, e vi ricordiamo ricordiamo che anche nazionale a Messina la data, e per le quasi invece ci sentiamo martedì prossimo, giusto? A martedì prossimo. Ciao, buona serata. Buona lotta.